C'era tanto tempo che sto diavolo lo vedevo timido a ronzar, e il coso il me piaceva tanto tanto, ma coraggio noi aveva di parlar. Ma una sera la mi passa in gringola con un far che proprio non me va. De colpo go pensa la galmoroso, geloso allora mi la go ferma. Dove ti va, mineta? Cussi depressa, cussi de gala, de buon umor. Vado coltoso in gondoeta, in gondoeta sulla laguna far l'amor. Voglio saper, mineta, chi se sto toso che in gondoeta te vuol portar. Mino te digo, chi che me aspetta, cosa te importa se in gondoeta mi voglio andar. Oh nineta, non st'andar via, morirò de crepa cuor senza de ti. Te godito una busia, spetto un toso questo sì, ma quel toso ti sei qui. Demo a sognar, mineta, sulla laguna al ciar de luna te parlarò, te basarò così, così. Gondoeta sori mi e ti. Vado coltoso in gondoeta sulla laguna a far l'amor. Chi se sto toso che in gondoeta te vuol portar. Mino te digo, chi che me aspetta, cosa te importa se in gondoeta mi voglio andar. Oh nineta, non st'andar via, morirò de crepa cuor senza de ti. De godito una busia, spetto un toso questo sì, ma quel toso ti se ti. Demo a sognar, mineta, sulla laguna al ciar de luna te parlarò, te basarò così, così, in gondoeta soli mi e ti, in gondoeta, in gondoeta.